2. Claudia. Quando Stenio riprese conoscenza, accolse con sdegno le premurose cure dell'amico. Perché siamo qui da soli? Perché siamo stati eliminati come lebbrosi? Non devi tornare dai compagni dell'orgia, disse Trenmore, perché essi stessi ti disprezzano e ti rifiutano. Hai perso tutto, hai rovinato tutto, hai abbandonato Dio, hai consumato e portato a termine tutte le cose umane. Non ti resta che l'amicizia, nel cui seno è sempre aperto un rifugio per te. E che cosa farà l'amicizia per me? Disse amaramente Stenio. Non è forse lei che per prima si è stancata di me e si è dichiarata impotente a darmi la felicità? Ma sei tu che l'hai rifiutata, sei tu che hai ignorato e negato le sue benedizioni, disgraziato bambino. Torna da noi, torna a te stesso. Se abiuri i tuoi errori, Lelia li dimenticherà. Lasciami, disse Stenio con rabbia. Non menzionare mai il nome di quella donna con me. È stata la sua influenza maledetta a corrompere la mia fiduciosa giovinezza. È stata la sua ironia infernale ad aprirmi gli occhi e a mostrarmi la vita nella sua nudità, nella sua bruttezza. Non parlarmi di questa Lelia, non la conosco più, ho dimenticato i suoi lineamenti, non so se l'ho amata una volta, sono passati 100 anni da quando l'ho lasciata. Se la vedessi ora riderei di compassione al pensiero di aver posseduto 100 donne più belle, più giovani, più ingenue, più ardenti, che mi hanno soddisfatto con piacere. Perché ora dovrei inginocchiarmi davanti a questo idolo di marmo? Quando anche avessi lo sguardo di fuoco di Pigmalione e la buona volontà degli dèi per animarlo, cosa ne farei? Cosa mi darebbe in più rispetto alle altre? C'è stato un tempo in cui credevo in gioie infinite, in estasi celestiali, è tra le sue braccia che ho sognato la beatitudine suprema, l'estasi degli angeli ai piedi del Santissimo, ma oggi non credo più nel cielo, né negli angeli, né in Dio, né in Lelia. Conosco le gioie umane, non posso più esagerare il loro valore. È stata Lelia stessa a prendersi cura di illuminarmi, ora ne so abbastanza, forse ne so più di lei. Che non mi richiami, perché la ripagherei di tutto il male che mi ha fatto e sarei finalmente vendicato. La tua amarezza mi rassicura. La tua rabbia mi fa piacere, disse Trenmore. Temevo che fossi insensibile alla memoria del passato. Vedo che ti irrita profondamente e che la resistenza di Lelia è rimasta nella tua memoria come una ferita incurabile. Oh, sia benedetto il divino! Stenio ha perso solo la salute fisica, la sua anima è ancora piena di energia e di futuro. Superbo filosofo e stoico burlone! Gridò Stenio con furore. Sei venuto qui per insultare la mia agonia? O provi un piacere imbecille nell'esibire la tua calma impassibile davanti ai miei tormenti? Torna da dove sei venuto e lasciami morire in mezzo al rumore e all'ebbrezza. Non arrivare a disprezzare gli ultimi sforzi di un'anima forse avvizzita dai suoi errori, ma non svilita dalla compassione degli altri. Trenmore chinò il capo e rimase in silenzio. Cercò le parole per addolcire l'amarezza di questo orgoglio selvaggio e il suo cuore si riempì di tristezza. Il suo volto severo perse la consueta serenità e le lacrime gli salirono alle palpebre. Stenio se ne accorse e suo malgrado si commosse. I loro occhi si incontrarono. Quelli di Trenmore esprimevano così tanto dolore che Stenio, sopraffatto, si abbandonò a un sentimento di pietà per se stesso. La derisione e l'indifferenza in cui era vissuto a lungo lo avevano abituato ad arrossire delle sue sofferenze. Quando sentì l'amicizia intenerirgli il cuore, fu come sorpreso e soggiogato per un attimo e si gettò con effusione tra le braccia di Trenmore. Ma ben presto si vergognò di questo movimento e, alzandosi di colpo, vide una donna avvolta in un lungo mantello veneziano sprofondare nell'ombra. Era la principessa Claudia, seguita dalla sua governante, che si dirigeva verso uno dei padiglioni del giardino. Decisamente, disse Stenio, aggiustandosi il colletto della camicia di batista e chiudendolo con il suo fermaglio di diamanti. Non posso lasciare che questa povera fanciulla languisca per me senza aver pietà di lei. La zinzolina ha probabilmente dimenticato che doveva venire. È una questione d'onore essere il primo a ricevere la nomina. Contemporaneamente Stenio girò la testa verso il lato in cui camminava Claudia. Per un attimo le sue narici si aprirono come quelle di un muffin, mentre coglieva nell'aria il dolce profumo della cerva di montagna. Un lampo di giovinezza brillò sulla sua fronte devastata, il suo petto sembrava gonfiarsi di desiderio. Ritirò la mano dall'amico e iniziò a correre leggermente verso il padiglione per precedere Claudia, ma dopo pochi passi rallentò e raggiunse la meta con sforzo e disinvoltura. Arrivò contemporaneamente a lei all'ingresso del padiglione e, ansimando per la fatica, si appoggiò alla ringhiera della scala. La giovane duchessa, rossa di vergogna e palpitante di gioia, pensò che il poeta, oggetto del suo amore, fosse preso dall'emozione e dalla confusione come lei, ma Stenio, un po' rinvigorito dallo splendore dei suoi occhi neri, le offrì la mano per salire con la sicurezza di un araldo e la grazia ossequiosa di un ciambellano. Quando furono soli e lei si fu seduta tremante con il volto in fiamme, Stenio la guardò per qualche tempo in silenzio. La principessa Claudia era appena uscita dalla fanciullezza. La sua vita già formata non aveva ancora acquisito il suo pieno sviluppo. L'eccessiva lunghezza delle sue palpebre nere, il tono della sua pelle prematuramente liscia e satinata, le leggere sfumature blu diffuse intorno ai suoi occhi desiderosi e languidi, il suo atteggiamento malaticcio e chino, tutto annunciava in lei una pubertà precoce e un'immaginazione divorante. Nonostante questi indizi di una costituzione focosa e di un futuro pieno di tempeste, Claudia doveva alla sua estrema giovinezza il fatto di essere ancora vestita con tutto il fascino della modestia. La sua agitazione la tradiva e non si rivelava. La sua bocca tremante sembrava invocare un bacio, ma i suoi occhi erano bagnati di lacrime. La sua voce, insicura, sembrava chiedere grazia e protezione, ma il desiderio e lo spavento travolgevano tutto questo fragile essere, tutta questa ardente e timida verginità. Stenio, colto d'ammirazione, all'inizio si stupì di avere a disposizione un tesoro così ricco. Era la prima volta che vedeva la principessa così da vicino e le prestava tanta attenzione. Era molto più bella e desiderabile di quanto avesse immaginato, ma i suoi sensi, ottusi e stanchi, non lasciavano più spazio alla sua mente ormai scettica e fredda. In un solo sguardo esaminò e possedette Claudia nella sua interezza, dai ricchi capelli racchiusi in una rete di perle al piedino stretto nel raso. In un solo pensiero prevedeva e contemplava tutta la sua vita futura, da quella prima follia che la portò tra le braccia di un povero poeta alle orrende galanterie di una vecchiaia principesca e dissoluta. Rattristato, spaventato, soprattutto disgustato, Stenio la guardò in modo strano e senza parlarle. Quando si rese conto della situazione ridicola in cui si trovava, cercò di avvicinarsi a lei e di parlarle, ma non avrebbe mai potuto fingere l'amore che non provava, e le disse con un tono di curiosità quasi severa, prendendole la mano in modo paterno: «Quanti anni hai?» 14 anni», rispose la giovane principessa sconvolta e quasi persa per la sorpresa, il dolore, la rabbia e la paura. «Ebbene, figlia mia», disse Stenio, «vai a dire al tuo confessore che ti dia l'assoluzione per essere venuta qui e ringrazia Dio soprattutto per averti mandato un anno, cioè un secolo, troppo tardi nel destino di Stenio». Mentre terminava questa frase, la governante della principessa, che era rimasta sull'uscio di una finestra a osservare la condotta dei due amanti, si precipitò verso di loro e, accogliendo la povera Claudia tra le braccia tutta in lacrime, chiamò Stenio indignata. «Insolente!» gli disse. «È questo il modo in cui riconoscete la grazia che la vostra illustre sovrana vi concede, scendendo ad onorarvi con il suo sguardo? Inginocchiatevi! Vassallo, inginocchiatevi, se la vostra anima brutale non è toccata dalla bellezza più eccelsa dell'universo, che la vostra audacia si pieghi almeno davanti al rispetto che dovete alla figlia dei bambucci». «Se la figlia dei bambucci si è degnata di scendere da me», rispose Stenio, «deve essersi rassegnata in anticipo a essere trattata da me come una mia pari. Se si pente in questo momento, tanto meglio per lei. Inoltre, questa è l'unica punizione che riceverà per la sua imprudenza. Ma può vantarsi di essere stata protetta dalla Madonna che l'ha condotta qui il giorno dopo e non il giorno prima di un'orgia. Ascoltate, voi due donne, la voce di un uomo saggio e altruista di fronte alla morte. Ascolta, vecchia donna dall'anima sordida, dai modi infami, e tu, giovane ragazza, dalle passioni precoci e dalla bellezza fatale e pericolosa, ascolta. Tu, innanzitutto, cortigiana titolata, marchesa il cui cuore nasconde tanti vizi quante sono le rughe del viso, puoi ringraziare la sbadataggine che cancellerà dalla memoria di Stenio il ricordo di questa avventura prima che sia passata un'ora. Altrimenti saresti smascherata agli occhi di questa corte ed espulsa come meriti da una famiglia in cui vuoi far appassire la fragile prole. Fuori di qui, vizio e avidità, cortigiana, servilismo, tradimento, lebbra delle nazioni, feccia e disgrazia della razza umana. E tu, povera bambina, aggiunse strappando Claudia dalle braccia della sua governante e portandola all'aperto tutta rossa e desolata com'era, ascolta bene, e se un giorno, trascinata dal capriccio del destino e della passione, dovessi guardare con terrore i tuoi begli anni perduti, alla tua purezza, appannata, ricordati di Stenio e fermati sull'orlo dell'abisso. Guardami, Claudia, guarda in faccia, senza paure e senza problemi, quest'uomo che pensi di amare e che probabilmente non hai mai guardato. Alla tua età il cuore diventa irrequieto e impaziente. Chiede un cuore che le risponda, che si avventuri, che si confidi in se stesso, ma guai, guai a chi abusa dell'ignoranza e del candore. Per te, Claudia, hai sentito la poesia di un uomo che credevi giovane, bello e appassionato. Guardalo, povera Claudia, e vedi che fantasma hai amato. Vedi la sua testa calva, le sue mani smunte, i suoi occhi spenti, le sue labbra appassite? Metti la mano su questo cuore esausto, conta le pulsazioni lente e morenti di questo vecchio di 20 anni. Guarda questi capelli che stanno diventando grigi intorno a un viso dove non è ancora cresciuta la peluria virile e dimmi, è questo lo Stenio che hai sognato? È questo il poeta religioso? È questa la silfide infuocata che credevi di veder passare nelle tue visioni celestiali quando cantavi i suoi inni sull'arpa al tramonto? Se avessi guardato allora i gradini del tuo palazzo avresti visto il pallido spettro che ti parla ora, seduto su uno dei leoni di marmo che custodiscono la tua porta. Lo avresti visto come ora, avvizzito, esausto, indifferente alla tua bellezza angelica, alla tua voce melodiosa, curioso solo di sentire come una principessa quindicenne fraseggiava le melodie ispirate dall'ubriachezza, scritte nella dissolutezza. Ah, ma tu non l'hai visto, Claudia, per tua fortuna. I tuoi occhi lo hanno cercato nel cielo dove non c'era. La tua fede gli ha messo le ali quando è strisciato sotto i tuoi piedi tra i lazzaroni che dormono sulla soglia della tua villa. Ebbene, signorina, così sarà per tutte le sue illusioni e per tutti i suoi amori. Trattieni il ricordo di questa delusione se vuoi conservare la tua giovinezza, la tua bellezza e la tua forza dell'anima, oppure, se puoi ancora, dopo questo, sperare e credere, non affrettarti a realizzare la tua impazienza. Conserva e trattieni il desiderio nella tua anima ardente. Prolunga con tutte le tue forze questa cecità della speranza, questa infanzia del cuore che ha un solo giorno e non ritorna. Governa con saggezza, custodisci con vigilanza, spendi con parsimonia il tesoro delle tue illusioni, perché il giorno in cui vorrai obbedire all'ardore del tuo pensiero, all'inquieta sofferenza dei tuoi sensi, vedrai il tuo idolo d'oro e di diamanti trasformarsi in grossolana argilla. Non stringere più tra le tue braccia altro che un fantasma senza calore e senza vita. Inseguirai invano il sogno della tua giovinezza. Nella tua corsa affannosa e fatale non raggiungerai mai altro che un'ombra. E cadrai presto esausta, sola, in mezzo alla folla dei tuoi rimorsi, affamata, in mezzo alla sazietà, decrepita e morta come Stenio, senza aver vissuto un giorno intero. Detto questo, lasciò il padiglione e si apprestò a raggiungere Trenmore. Ma Trenmore gli diede un colpetto sulla spalla quando raggiunse il fondo della scala. Aveva visto e sentito tutto attraverso la finestra semiaperta. «Stenio», disse. «Le lacrime che ho versato poco fa erano un insulto. Il mio dolore era una bestemmia. Sei infelice e dispiaciuto, ma sei, figlio mio, più grande di Lelia, più esperto di Trenmore, più puro dei santi a cui Dio apre le braccia con amore». «Trenmore», disse Stenio con profondo disprezzo e una risata amara. «Vedo che sei pazzo. Non vedi che tutta questa moralità che ho appena mostrato è solo la misera commedia di un vecchio soldato caduto nell'infanzia, che costruisce fortezze con granelli di sabbia e si crede arroccato contro nemici immaginari? Non capisci che amo la virtù come i vecchi libertini amano le giovani vergini e che lodo le attrazioni di cui ho perso il piacere? Pensi, uomo infantile, sognatore ingenuamente virtuoso, che avrei rispettato questa ragazza se l'abuso del piacere non mi avesse reso impotente». Mentre terminava queste parole in tono amaro e cinico, Stenio cadde in una profonda fantasticheria e Trenmore lo condusse via dalla villa senza che lui sembrasse preoccuparsi di dove lo stesse portando. 3. I Camaldoli. Trenmore, che amava viaggiare a piedi, si procurò dunque una carrozza per trasportare Stenio, che non avrebbe avuto la forza di camminare. Si incamminarono a passo tranquillo, contemplando con calma i magnifici luoghi che stavano attraversando. Stenio era taciturno e pacifico. Nemmeno una volta chiese la fine e lo scopo del viaggio, si lasciò trasportare con l'apatia di un prigioniero di guerra e la sua indifferenza per il futuro sembrava dargli piacere nel presente. Spesso guardava con ammirazione le bellezze di questo paese incantato e pregava a Trenmore di fermare i cavalli per poter salire su una montagna o sedersi vicino a un fiume. Poi ritrovava barlumi di entusiasmo, esplosioni di poesia per capire la natura e celebrarla. Ma nonostante questi momenti di risveglio e di rinascita, Trenmore vedeva nel suo giovane amico i danni irreparabili della dissolutezza. In passato, il suo pensiero attivo e vigile si era impossessato di tutte le cose e aveva dato colore, forma e vita a tutti gli oggetti esterni. Ora, Stenio vegetava di norma in un'esplosione voluttuosa e fatale. Sembrava di sdegnare l'uso dell'intelletto, ma in realtà non ne era più padrone. Spesso la chiamava invano, lei non obbediva più. Fece allora finta di disprezzare le facoltà che aveva perso, ma l'amarezza del suo riso tradì la sua rabbia e il suo dolore. In segreto rimproverava la sua memoria ribelle, castigava la sua pigra immaginazione, spronava il suo genio insensibile e stanco, ma era inutile. Ricadeva esausto in un caos di sogni senza meta e senza ordine. Le idee gli passavano per il cervello incoerenti, fantasiose, sfuggenti, come quelle scintille immaginarie che l'occhio crede di veder danzare nell'oscurità e che si susseguono e si moltiplicano per svanire per sempre nell'eterna notte del nulla. Una sera al tramonto entrarono in una valle coperta di ricche foreste. Le acque più belle serpeggiavano silenziose all'ombra di mirti e fichi, vaste radure dove pascolavano mandrie semiselvatiche, intersecavano queste masse di tono vigoroso con morbidi bordi verdi. Questo paese era ricco e deserto. Le uniche abitazioni visibili erano casette sparse, quasi nascoste dal fogliame. Si poteva quindi godere di tutte le grazie e i benefici della natura fertile e di tutta la grandezza e la poesia della natura incolta allo stesso tempo. A metà della collina, che i nostri viaggiatori stavano scendendo per entrare in questa splendida valle, Trenmore fece smontare il suo compagno e, mentre la carrozza e i cavalli li seguivano con passo attento lungo un sentiero veloce e pericoloso, guadagnarono camminando il terreno fertile e dolcemente ondulato della valle. Per un momento Stenio si sentì ringiovanito e confortato dalla vista di quella bella terra. «Felici!» gridò ripetutamente. Felici i pastori spensierati e rudi che dormono all'ombra di questi boschi silenziosi, senza altra cura che quella delle loro greggi, senza altro studio che il sorgere e il tramontar delle stelle. Ancora più felici sono i puledri spettinati che saltellano leggeri nel sottobosco e le capre agguerrite che si arrampicano senza fatica sulle rocce scoscese. Felici tutte le creature che si godono la vita senza fatica e senza eccessi. Quando girarono l'angolo, Stenio vide nella foschia della sera che a poco stava mangiando tutti i contorni del paesaggio una vasta linea bianca sul fianco della montagna che circondava la valle in un vasto e maestoso semicerchio. «Cos'è questo?» disse a Trenmore. «Si tratta di una linea di splendida architettura o di una parete di gesso come quella che si trova in queste rocce? Si tratta di un'enorme cascata, di una cava o di un palazzo?» «È un monastero», rispose Trenmore. «È il convento dei Camaldolesi». Stenio non aveva ascoltato la risposta. Continuò a camminare fischiettando. Arrivò la notte. La strada appena tracciata divenne così buia che il postiglione non poteva avanzare oltre senza incappare in ogni albero. Un casolare lo ospitò, ma i due viaggiatori, trovando l'ora troppo poco tarda per concedersi il riposo, continuarono a camminare e si addentrarono a caso nel bosco. Trenmore conosceva perfettamente il paese, ma fingeva di essersi perso. Temendo di suscitare la ripugnanza di Stenio e di richiamarlo al senso della libertà, avvertendolo della sua intenzione, finse di non sapere dove avrebbero passato la notte. A poco si avvicinarono alle montagne e Trenmore, vedendo Stenio stanco, suggerì di tornare come meglio potevano al luogo in cui avevano lasciato l'equipaggio. «Preferirei morire ora piuttosto che tornare indietro per la strada che ho percorso», rispose Stenio. «Sono sopraffatto dalla stanchezza, non andrò oltre di un passo». «Non puoi», disse Trenmore, «dormire al sicuro su quest'erba bagnata e nella nebbia di queste acque fredde e stagnanti. Sforzati di salire alla base della montagna. Ecco un percorso agevole e facile. Quando avremo raggiunto una certa altezza, potremo trovare in qualche grotta un asilo più sano». E Stenio si lasciò trascinare e quando ebbero superato un boschetto di alberi che costeggiava i piedi della montagna, videro, alla prima luce della luna, l'elegante e ricca facciata del convento camaldolese che si ergeva davanti a loro. Tremor si offrì di chiedere ospitalità. Un fratello laico venne a riceverli e, senza rispondere alle loro richieste, li condusse nella stanza dei pellegrini. Stenio, sopraffatto dalla stanchezza, dormì così profondamente da perdere la cognizione della sua situazione e il giorno dopo si ritrovò in piedi e vestito senza essere riuscito a recuperare la memoria del giorno precedente e a rendersi conto di dove si trovava. Non pensò nemmeno di chiamare Trenmore. Aveva dimenticato sia Trenmore che la sua partenza da Villa Bambucci e il suo viaggio attraverso la campagna di cui non aveva chiesto il nome. Gli sembrò di essere passato improvvisamente da un luogo rumoroso e popoloso a una casa deserta e silenziosa. Uscì dalla sua stanza e lanciò uno sguardo di pigro stupore e di noncurante indecisione agli oggetti che si presentavano.